casa, scuola, infilo via. Tu che non puoi restare sola, tu che telefoni ogni ora e poi non dici una parola. Innamorata, innamorata, innamorata. Innamorata, innamorata, innamorata. Io che ero primo in compagnia e la più bella era la mia, dicevo donna tu sei mia. È stato un caso oppure un gioco e sei arrivata poco a poco. Tu col tuo sguardo un po' innocente, tu che mi leggi nella mente, senza di te non sono niente. Innamorato, innamorato, innamorato. Innamorato, innamorato, innamorato. Le cose pazze, poi un fiore, poi abbracciarsi in ascensore, aver la casa per due ore.